La prima differenza è che quella di adesso non ha nulla da perdere, nel senso si trova in una situazione secondo me ottimale per ottenere risultati senza grosse pressioni. Insomma, il campionato che ha fatto da quando è arrivato Ranieri, è, conoscendo l'ambiente di Roma, è abbastanza per essere soddisfatti, quindi non ha nulla da perdere, e questo può togliere qualcosa magari in certe partite, però sicuramente in un ambiente come Roma dà la serenità che è il problema di vero di lavorare a Roma, insomma, avere la serenità e la continuità dei risultati gestendo le sconfitte e le vittorie. Quindi quella di adesso ha questo: noi eravamo stati allestiti per vincere, quindi avevamo l'obbligo di vincere, non a caso insomma eravamo probabilmente l'Inter di adesso, eravamo se non più forti della Roma di adesso sicuramente più forti delle altre squadre del campionato. La Roma adesso probabilmente non è la più forte del campionato, almeno sulla carta, però è lì, se la gioca non ha nulla da perdere. Non solo, secondo qualcuno se la gioca addirittura con, cioè, quel punto non conta, sembra quasi dalla suggestione della rimonta, come sempre per chi viene da dietro, no? Che sia più favorita la Roma. Vale anche per te, Gianni, questa sensazione? Sì, è una cosa non tanto spiegabile tecnicamente, o forse sì, ma è una cosa nell'aria. È una cosa nell'aria che forse in parte dipende dalla non eccessiva simpatia che l'Inter si è creata intorno negli ultimi tempi, oppure dipende anche, molti che sono tifosi neutrali, voglio dire, sì. Sai che quando una squadra fa i cicli come la Juve di Carcano, eccetera, dopo 5 anni uno dice speriamo che vinca qualcun altro. Ecco, in questo caso la Roma è la speranza di quelli che dicono speriamo che vinca qualcun altro dopo tutti questi anni. La famosa alternanza. Non mi sembra messa male, invece, in una cosa molto più terra-terra che è il calendario, per quel poco che può valere, secondo me la Roma ha un calendario un po' meno duro di quello dell'Inter.